I tipi strani ce ne sono in giro. Un giorno disse uno: passami una stilo. Mi portò una macchina marcata stilo. Pare di essere all'asilo certe volte. Un cretino in strada grido forte. Il mio nome per più volte. Si incazzò con me, chissà perché. Perché arrivavano su Facebook le mie canzoni. Preso dalla gelosia mi disse di non rompere i coglioni. Ma non è colpa mia se si è iscritto alla mia pagina. E questo si gira e la fa tragica. Inizia a mandarmi a fanculo con la sua parlata mitica. Quasi grezza, è un po' stitica. La sua faccia da schiaffi e il suo capello biondino. Tutto piastrato dal suo fare fighettino. Gli risi in faccia e mi rimisi l'auricolare. Non appena volto le spalle che me ne dovevo andare. Mi ferma da dietro e disse di aspettare. Gli risposi: vuoi finire in ospedale? E lì mi lascio il braccio tutto terrorizzato. Per un attimo la sua parlata comincia a perdere il fiato. Non pare più quel frutto, è tutto incazzato. E me ne vado sereno a casa, felice di averlo aspettato. Innanzi al suo amico testa di cazzo, eppure impazzito. Che coglioni. Non è bastato l'avvertimento, deve passare giorni di pentimento. Mi continua a fissare con i suoi amici in una via. Sguardi di minaccia che fanno ridere alla mia compagnia. Caso bolle che lo rincontro nuovamente. Mi fissa, sta fermo e non fa niente. La palla palla. E lo guardo male, la sua attenzione sale. La mia rimane normale. Si sente osservato, imbarazzato e minacciato. Con lo sguardo l'ho fulminato. Mi sento incazzato, penso a quanto era incoglionito. Mi ripiste su col terzo dito. Sono deficiente e impazzito. Quasi intristito, anche impaurito, da solo lasciato. E penso se fosse solo come l'avrei caricato. Ma volete proprio sapere chi è questo elemento? Ho paura che voi lo prendete come soggetto di divertimento. Potrei farvi lo spelling del suo nome e pronunciare il suo cognome. Ma siccome suo padre è carabiniere, sì, lo credo. Zio fa lo stesso mestiere. E poi? Il nonno è stato poliziotto. Ah, e sua mamma è un avvocato, può darsi corrotto. Ah. A sto punto mio padre lavora nella NASA. Mia madre ha mille una casa. E mio nonno ha incastrato Peter Pan. E mia nonna è la moglie di Gengis Khan. E l'amro nella la fama e la sollevi lo freno make up of metal friend. E la mi da lunes non ha folle se. E la fare scelo non è con il mo con e no io qua il trevere e fone sorna. E mono fre o trevla. Per chi conosce questa lingua non c'è problema. C'è chi per tradurla usa un ottimo sistema. Anche chi non ci sa fare con l'audio lo riesce a fare. Ma mi raccomando, potrebbe prendervi un attacco virale. Ok dai, ve lo posso anche dire. In quella traccia il suo nome si può sentire. Non vi dico a quale paese appartiene. Non vi dico l'età che ritiene di avere. Posso solo dirvi che è uno che dice di sapere tutto di Chinese rap. Ma può darsi sappia solo che mi piacciono le crepe. Siccome è uscito allo scoperto, parlo un testimone. Questo ragazzo di nome Alberto si caccia già nei guai. A scuola le prese, per quel CD che doveva dare un mio amico. C'è altro? Sì, ma sono troppe le cose. Testimoni di qua, vittime di là, albermo tua vaga. Vuoi alzare le mani, vuoi fare il fighettino. Ma sei peggio di un bambino, oltre alle mani. Dove non c'è un callo, hai la mente più chiusa di un pisello. Quando sta chiuso nel suo bacello. Il cervello più piccolo di una gallina, grande quanto una mentina. Ti sei rimpicciolito a furia di pensare a come ci si siede successo a defecare. Visto che sei sempre il solito a minacciare, pensa un po' a campare. Vivi la tua vita e degli altri, non ti preoccupare. Perché parla sempre tu e non riuscivo a parlarti. Ti disse abbassa la cresta. Beh, quando vedi me ora devi abbassare pure la testa.